È da molti anni che il dibattito politico mediatico italiano, in realtà è dal secondo dopoguerra, che i media e i politici ripetutamente, in maniera reiterata, ricorrente, a ondate, usano le parole fascismo, nazismo e razzismo per parlare di fenomeni contemporanei. Negli ultimi anni, naturalmente, le parole fascista e razzista soprattutto sono riferite a esponenti della Lega, anche a Matteo Salvini stesso, al leader, ed esponenti dei Fratelli d'Italia, in particolare Giorgia Meloni. Per quel che riguarda l'attribuzione di nazista, invece, di solito la si riferisce a movimenti dell'estrema destra extraparlamentare. Questa cosa accade anche in altri paesi europei, accade anche negli Stati Uniti, in particolare adesso è finita l'era Trump, non è finito il trumpismo, ma è appunto il riferimento a Trump e al trumpismo che si usano questi termini. In Italia c'è un'insistenza particolare sul concetto di fascismo e sull'area semantica del fascismo, e io mi permetto di dire che è quasi ossessiva. C'è un'inflazione di parole, di immagini riferiti ai campi semantici del fascismo, sostantivi, aggettivi, luoghi comuni, parodie, meme sui social media. Come ogni inflazione, tutto ciò che si ripete, che si inflaziona, cosa fa? Si deprezza. Nel caso di un'inflazione di parole si va a finire sul loro svuotamento semantico. A furia di essere ripetute perdono significato. Questo accade sempre, accade anche in questo caso. Osservando tutto ciò, a un certo punto io e alcuni colleghi abbiamo pensato di mettere in piedi una ricerca, e quindi abbiamo coinvolto alcune istituzioni eminenti del territorio, innanzitutto l'Ordine dei giornalisti dell'Emilia Romagna, abbiamo coinvolto la Fondazione Gramsci, l'Istituto Storico Parri, il Corecom dell'Emilia Romagna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. La maggioranza assoluta delle rappresentazioni, sia sui quotidiani sia nelle trasmissioni televisive, che cosa fa? Rappresenta la negatività assoluta solo se viene riferita al passato, cioè attraverso approfondimenti o richiami alla memoria storica, quindi alla storia, a quando erano gli eventi del fascismo, del nazismo o a fatti del passato. Tutto ciò che invece di queste aree semantiche viene riferito alla contemporaneità viene rappresentato come meno minaccioso, perché è riferito solo a gruppi minoritari, alla follia di qualcuno, ai social media, eccetera, eccetera. Insomma, i contorni valoriali sono molto sfumati. Nella maggioranza dei casi, quando si riferiscono i fenomeni alla contemporaneità, il giudizio, la valorizzazione non è mai netta, è sfumata ed è rassicurante. Questa tendenza a riferire solo al passato la negatività dei fenomeni che stanno nell'area semantica di fascismo, nazismo e razzismo, dall'altro lato si riferiscono al passato anche le opposizioni nette, cioè coloro che nettamente hanno combattuto al passato. Unica eccezione nel periodo esaminato, però anche questa durata molto poco, è quella del Movimento delle Sardine, che si proponeva antifascista, nettamente antifascista, quindi un'unica eccezione, anch'essa comunque minoritaria, minoranza nella minoranza. Dobbiamo aggiungere a questi risultati alcune considerazioni generali sul funzionamento della comunicazione di massa. È il tema della ripetizione. Se ripeti le parole, le porti ad uno svuotamento semantico, perlomeno in relazione a, diciamo, all'uditorio, agli ascoltatori e lettori meno colti e meno informati. D'accordo. Ma abbiamo un di più, perché anche quando usi queste parole con un significato dispregiativo, e spesso è così, contrapponendoti ai contenuti che esprime. La ripetizione che cosa fa? Ha l'effetto che accade sempre. Prendiamo l'esempio del turpiloquio. Il turpiloquio, una volta che viene normalizzato, una volta che entra nel gergo quotidiano, sia della vita personale, sia sul lavoro, sia nei contesti informali, sia in quelli più formali, cosa a cui tutti assistiamo da diversi decenni, perde la forza dispregiativa, si normalizza, suona legittimo, dicibile, meno volgare e meno insultante. Quindi la ripetizione toglie forza anche a quella carica dispregiativa nel caso in cui alcuni gliela volessero mettere a espressioni riferite alle aree semantiche del fascismo, nazismo e razzismo, e si assiste ad una sorta di normalizzazione. Quindi la debolezza valoriale che emerge dalle nostre analisi, a quella debolezza, a quei contorni valoriali sfumati di cui ho detto, dobbiamo aggiungere l'indebolimento ulteriore che viene dalla ripetizione. Il tema della ripetizione sembra una banalità, ma non è. È semplice, ma non banale. Ricordo che nella pubblicità commerciale è qualcosa che si conosce molto bene. Secondo funzionamento della comunicazione di massa, c'è un refrain, un ritornello ripetuto, che non è solo da parte di chi studia la comunicazione di massa, ma ormai è quasi un luogo comune, che è una frase nel bene o nel male perché se ne parli, che parafrasa un brano del ritratto di Dorian Gray, nel bene o nel male purché se ne parli. Cosa vuol dire questo? Un'insistenza eccessiva su fascismo, nazismo e razzismo, specie se fatta in modo poco critico, acritico o comunque edulcorato, vuol dire attirare comunque l'attenzione su questi fenomeni, farli presenti a chi non li conosceva, pensiamo ai bambini, pensiamo ai ragazzini, pensiamo agli incolti, a chi non ci pensava, a chi non ci faceva caso. In sintesi, si rischia di creare mode e tendenze. Anche il motivetto che meno ti piace, se ripetuto, al fine ti entra in testa. Insomma, in conclusione, se non arriverai a fartelo piacere, il motivetto che non volevi sentire ma che ti è entrato in testa, alla fine arriverai a conviverci. Ed è questo l'effetto che si rischia, sommando il modo in cui si trattano queste aree semantiche sui media con questi due meccanismi fondamentali della comunicazione di massa, che sono comunque abbastanza ineludibili.